non so se la lascio così, perché assieme al grigio, al nero, sai, le radio che abbiamo noi sono tutte così grigie, nere, eccetera, questo verde non è che mi piace molto e quindi sono propenso a darle un colore mio particolare, un nero magari martellato, un grigio scuro, però non lo so se la lascio stare così. Non ti biasi, la... No, è un verde che prende troppo all'occhio, già in mezzo al grigio e al nero non ci fa niente questo verde. Tanto ti ripeto, è una radio mia, quindi me la faccio a mio piacere. Anche perché il frontalino è tutto nero, è bellissimo. Quindi stava dicendo già, ne sta bene anche un grigio scuro, tipo Kenwood così, capito? Ma sono quei grigi martellati, bellini. Oppure un celeste tipo Turner più 2 da tavolo, quel celeste martellato lì, è molto bello. Però a me piace nera, o nera o grigia la faccio, adesso vediamo. Adesso quando asciuga la metto a fianco alle altre. Se mi sfasa troppo i colori la faccio o nera o grigia, già, grigio scuro. Nera, non sbaglio. Io l'avrei fatta nera direttamente, se la fai. Però poi perde il valore. Di cosa già? Tanto chi la devi dare? Non è che la devo dare a qualche collezionista che non te la compra perché il colore non è originale, non mi interessa. Non mi interessa. Gianni ha detto qualsiasi colore a me già mi va bene. Solo che non la posso dare. La tengo perché è molto curiosa, è bella da vedere, ma soprattutto è funzionante, capito? Quindi, tra l'altro non l'ho manco provata in bande un po' più alte, devo provarla adesso in SSB, c'è l'accordatore d'antennami già, infatti vedevo questo load tune, ho detto ma che cos'è, l'ho detto a Gianfranco, ma è quello l'accordatore, quando tu lo metti a spalle che inserisci la sua antenna c'è l'accordatore automatico. Non è automatico, è manuale. Posso riprovare? Sì, scusa, automatico, è manuale. Ehi, a riprova. Sì, aspetta, devo mutare di nuovo, se no me li dimentico, faccio caso io. Un attimino. Ma sta facendo una prova per entrare in 27 digitale, così. Nord-ovest, 8, mare, 4, sud, 4, mare, 4. Adesso la modulazione è bella chiara, Gianfra, adesso va bene. Mare, 4, Adriatico, settentrionale. Adesso va bene, Aponado. Sì, torna rodato, mamma mia, siccome è digitale, questo attrezzo è touch screen. Ogni tanto non gli ho tanto. Vabbè, quindi se va bene va bene. Quindi qua è sistemata. Ok, perfetto. Richiamo dopo per la modalità digitale vera e propria. Anche se non capite un tubo come emissione, perché chiaramente non avete registrato, però è digitale. Eh beh, glielo so io come si sente digitale. Tipo clippato. Avanti già. Via. E così è. Quindi Gianfranco vuoi entrare in 27 modalità digitale. Cosa c'entra? Ce l'ho anch'io quella. Stiamo facendo esperimenti. E intanto prima o poi ci dovremo attrezzare, o vi dovete attrezzare. Andremo in modalità digitale. E vabbè. No, ce l'ho anch'io. Dobbiamo fare, infatti adesso fare queste prove e poi faremo delle prove io e lui, vediamo un po' come va. Però non si capisce niente, se no uno che si mette ad ascoltare, se io per dire sono sul 10 in digitale e tu sei in analogico non capisci niente. Ma la 27 rimane così, non cambia in digitale, la 27 rimane quella che era sempre. E vabbè, certo che nessuno la cambia, però vedi adesso già io e Gianfranco stiamo facendo esperimenti in digitale 27. Magari faremo un canale per chi si vuole comprare il digitale e si parlerà in digitale. Vediamo un po', adesso aspettiamo, dobbiamo fare delle prove. Ma non ci preoccupiamo, già siamo qua. Sì, ma anch'io sto andando per il nero, Gianni. Già ieri, cioè stamattina ero così, ma la aspettiamo perché ho preparato tutto qua a casa, infatti ho mandato anche la foto a Massimiliano. Ho comprato col barattolo della vernice, tutto, i pennellini per fare i ritocchini, sai, dove non arriva perché non si può smontare, però già è venuta bene. Aspettiamo così, verde, o a comprare con un nero martellato qualcosa, ah, va bene così. Vabbè, adesso guardandolo bene va bene perché è il suo colore, però assieme agli altri radio questo verde mi biglia troppo a luce, quindi sto pensando di farla nero, nero opaco martellato, qualche nero particolare, però nera. Ragazzi, se mi autorizzate, così non vedo un po' più le scatole. Passo in digitale, al vostro via, ci provo. Vai, vai Gianfra, vediamo se funziona, mi guarda come funziona il digitale, guarda Gianfra. Già, lo comprende nuda, senti, non c'è solo rumori. Fa solo casino e basta. Perché tu non c'hai la radio digitale, solo lo senti come stai sentendo qua a me, è uguale. No, un pochino meglio, Sì, beh, senza dubbio, molto meglio, molto più chiaro, molto più... No, non si scherza, il digitale, il resto è noia. Però già va bene, Gianfra. Il segnale digitale è quello, già va bene. Sì. Quello è senza niente, quindi non è, è normale, tier 1 perché lo capisce, quindi è compatibile anche qua, mentre il tier 2 è neanche a roccia, neanche qua si riesce, inizia credo dai 50 mega a funzionare. Comunque va bene, sono contento, era un coso che mi mancava, c'era collegato a fare. Era un coso da collegare praticamente, lo spinotto su un altro apparecchio che serve per la gestione di tutta la stazione. Finalmente sono riuscito a fare tre saldature e adesso ho fatto anche quella. Sono contento. Anche noi siamo contenti che tu sei contento. Va bene alla grande. Vai già. Io, il problema già fa è trovare qualcuno che modula digitale come te. Guarda, quel problema non esiste. Se fosse stato ad aspettare qualcuno o qua o su o giù o a destra o a sinistra, questo la sarei già diventato vecchio, quindi come dice il proverbio, più fa da sé fa per tre. Ogni tanto mi sento con Claudio, che è l'unico diciamo abbastanza disponibile per fare questi test, e quindi andiamo avanti così, altro non si può fare. Ma questo è il discorso per tutti quelli che sono il SWL, che facendo ascolto, facendo questo, facendo l'altro, si devono arrangiare, capito? Vabbè. Ma caso tu ne hai perché apparati che vanno in digitale? Certo che sì, se sono cosa fa? Se ti ha detto Gianfranco che l'unico sono io, certo che sì, io ho la radio M27 che va anche in digitale, ho le radio VU che vanno in digitale, c'ho tutto quello che serve, anche se io non uso niente, io c'ho tutto già, è normale, un SWL deve avere tutto. Basta fare due chiacchiere, non mi interessa tutte queste cose. Ma ti ho detto, se io e Gianfranco ci mettiamo a parlare in un canale, non di certo andiamo a rompere le palle alla gente che sta parlando del canale 10, un canale X, facciamo due chiacchiere, io e lui digitale. Chi non ha la radio digitale non capisce quello che stiamo dicendo perché non sente niente, sente solo rumore e basta, c'è chi c'è qua. Ma noi non sentiamo a lui e lui non sente a noi, cioè non puoi disturbare, capito, se non hai la stessa radio che va lì. Vabbè, comunque Gianfra, quando è tutto pronto poi facciamo le prove. Sì, adesso la prossima settimana mi hanno assicurato che arriva quello là, proprio versione 2021, l'ultimo uscito, e vediamo un po' cosa ci dice, ecco, ed è formidabile, sarà da ridere, tra l'altro con potenze anche di 0,5 watt, quelle lì, insomma, formidabile, sempre con i controlli ECM, eccetera, eccetera, quindi antidisturbo, localizzazione e satellitare anche. Spiegaci. Gianni, quanto ci vuole arrivare in capo al mondo col digitale? Quanti watt possiamo usare? A differenza di qua, che per arrivare a, per dire, a Muros devi attaccare lineare, dico un paese, per arrivare ad Alghero, uno che è in difficoltà deve attaccare lineare. Quanti watt possiamo usare noi, Gianfra, per arrivare in capo al mondo? Ma io, se non ricordo male, sono 300 per noi, non vorrei sbagliare perché credo che l'abbiamo anche aumentata, 300 se non ricordo male, però di lì, con questo tipo di modulazioni, tu pensa che io ascolto le navi che ci sono nell'Oceano Indiano, in Australia, eccetera, in diretta in HF, quindi è sempre formato di testo e a volte, cioè escono messaggi con la localizzazione, posizione e tutto quanto, però non sono grandissime potenze, ecco, come si potrebbe pensare. È di problema, ti ricordi non abbiamo fatto la prova in V, mi sembra che eravamo, quanto eravamo? 100.000 watt, se tu eri a Trentino, io ero a casa, col portatile mi già in digitale, è allucinante, il sistema digitale è allucinante, c'è una forza micidiale, riprendi già. Vabbè, io adesso vado e riprendo dalla macchina magari, perché devo andare a fare una commissione, dai. Magari metto l'antenna in macchina e mi sentite da... Ehi, a prendere la bandiera stai andando. Immaginate. Va bene, vai già, tranquillo, io già sono qua, sono le 7:10. Oggi porto il cane e siamo di nuovo a Ponte a Capo, lo sai, sì, da lunedì siamo in zona arancione, ma di nuovo chiusi. Lo so, l'ho sentito, ricordo, già l'arancione che si è passato, è allucinante, guarda, una cosa che non si crede, che abbia messo più colui da un momento all'altro. Io dico, se ci fosse stata un peggioramento, una cosa, ma siamo tranquilli, Non molto tranquilli, leggiti il giornale, che c'è un focolaio allo Stato Civile. C'è un casino in Sardegna, è aumentato in giro la settimana, c'è un focolaio all'ospedale civile, a San Pietro, hanno ricoverato 15 nuovamente in terapia intensiva, perché siamo una massa di coglioni, capito? In gergo proprio sporcaccione, non capiamo niente, la gente continua a fare i cacchi che vuole e continua a frequentare chi vuole, ecco cosa sta succedendo di nuovo, capito? La gente si deve mettere in testa che questa pandemia è una cosa seria e dobbiamo curarla noi, perché altrimenti non ne usciamo più. Sì, ma molta gente è ignorante, continua a fare quello che vuole, tipo quello che c'era nel mio palazzo, che gli ho fatto osservazione più volte, sempre scende senza mascherina, usa l'ascensore. Ho detto, ma ti sembra una cosa giusta che tutti gli altri entrano l'ascensore, entrano pizzaioli, entrano bambini, entrano famiglie intere, ma stiamo scherzando, tu dici, faccio le macchine, ma scusa, devi mettere addosso, si può dentro in casa. Cazzo, tre volte già le ho detto, la prossima volta ti chiamo il vigile urbano, voglio vedere se c'è la bocca. Guarda, già ieri ero dove c'è, di lì a Latte Dolce, c'è un patronato, credo, non so cosa sia, c'era tutta la gente con le mascherine, un altro po' però si abbracciavano pure, ma c'era una signora vicino a me che si è bloccata per cambiare anche marciapiede, ha detto, questi sono pazzi, questi meravigliano che ci sono i contagi, una da casa all'altro, sono stati una trentina di persone, una vergogna, cioè, ma quanta gente deve morire ancora? Non so, gente ignorante, cosa vuoi fare, Gianfranco? Gente ignorante, non riesce a capire la situazione, spesso che sia tutta l'acqua di rose, capito? Invece non è così, è una cosa molto grave, se non stiamo attenti è grave la cosa. Grave che adesso per altri 15 giorni, una settimana di nuovo bar chiusi, tutto chiuso, attività commerciali chiuse, mi sono veramente rotto le balle, capito? Tutte le attività stanno rompendo perché purtroppo non possono guadagnare, non possono campare tranquillamente a pagarsi le cose. E ne andiamo a finire. Certo, per colpa di questi cretini, di questi imbecilli che è stato così, capito? Se no, lui. Proprio dai, io vi saluto. A presto. Ciao, ciao, dai, ci aggiorniamo dopo. Cordialità, fatti sentire dalla macchina, se coincide, dai, avanti Gianfra. Un attimo. Bene. Ciao, buonasera. Marco Scorpio, immobile di rientro dopo la distruzione delle antenne di Sierra Whisky Whisky. Non so se Walter vi ha informato qua, ma il tornado gli ha distrutto l'impianto di punti, della casa dei punti, non quello di Maciagueta dove abita, è l'altro. Beh, che ci fosse, ciao Marco, intanto buonasera, grazie dell'info. Qualcosa mi ha accennato ieri Massimiliano, bulldozer nel rientro a casa, ha visto un disastro lì a centro casa, tutto lì punti, un po' messo male, quindi abbiamo ho praticamente intuito che qualcosa sia successo lì a casa di Walter, quindi praticamente mi ha buttato tutto giù. Una distruzione globale, tutto distrutto, tutto, traliccio, antenne, tutto, non si è recuperato niente. Cioè rotori, le cose così, ma le antenne tutte distrutte. Ma un tornado da paura, ha scoperchiato i tetti, cioè il tetto della casa di fronte, dove c'è la Mosley, distrutto, ha portato via tutto il rivestimento, tutta l'impermeabilizzazione, tutto. I tetti a fianco lo stesso, ci manca la metà delle tegole a tutti i tetti del circondario. Per non parlare di un'altra villettina dietro che ha sradicato e sollevato il pilastro con la fada del tetto, gliel'ha sollevato, cioè una cosa allucinante, io non ho mai visto una cosa del genere. Cioè sollevare una falda di tetto di 30 cm per una lunghezza di 10 metri deve essere una potenza assurda. Se trovava una persona ce la succhiava, la trovavamo in Lazio. E qua qualche tromba d'aria c'è stata lì di punti. Guarda qua che ti ho mandato filmare. Scusa, Marco, ti volevo chiedere, ma confermi anche, perché mi hanno detto che ne ha sradicato anche il cancello di centro casa e ce l'ha buttato non so dove. Confermo, non solo, ma anche tutti quei pali, quella qualificazione dell'insegna, che erano dei pali da 20 centimetri, 20 centimetri per 15 o per 20, alti 4 metri con l'insegna, quella di diverso, sradicato come un fruscello. E più, se ti dico che in una casa ha sollevato la falda del tetto di 30 cm, tutta la falda col cemento armato, cioè una cosa pazzesca, cioè io non avevo mai visto questo, no ragazzi, roba da pazzi. Una tromba d'aria dice che sono stati dei momenti di panico allucinante, perché pensate il rumore, lo sbattere, le cose, le tegole volando come coriandoli, le tegole quelle doppio coppo portoghese, non quelle piccoline, quelle doppio coppo portoghese volando come coriandoli, pensa un po', e certe cose non si trovano neanche, perché non ci mancano pezzi di tetto e non si sa dove sono andati a finire. Ma fammi capire, ma praticamente dove è stato rifatto il tetto? Dalla parte dove abita Italo. Esatto, lì Italo non c'ha più copertura, cioè c'ha il cemento nudo. Hanno fatto lì 2 anni fa tutto l'impermeabilizzazione, il materiale coibentante, il sughero, poi il polistirolo, no, tutta quella roba lì, l'ha attrappato tutto quella roba lì, l'ha portato tutta via e ce ne mancano anche pezzi, non si sa dove sono, volati via, non... Tutto scoperto, quello è tutto tirato via. Due soldi aveva speso lì, Walter, per mettere tutto a posto, ma ricordo, lì stava lavorando quei due che conosci. Porca miseria, vada. E le antenne non è fatta niente, il biglietto è ripiazzo, ma un danno del genere è allucinante. No, Marco, l'ho visto, io mi è capitato nell'ambito lavorativo, una tromba d'aria lì nella zona di Badesi, Trinità d'Agulto, Valle d'Oria, ha scoperchiato un capannone, praticamente è crollato da solo sto capannone. È una cosa impressionante, la tromba d'aria così, quando passa non chiede niente, si porta via tutto, è una cosa che distrugge tutto. La cosa allucinante è che c'è proprio una traccia della tromba d'aria e addirittura le case che sono dall'altra parte del capannone, per il capannone lo stesso ha portato via i tegoloni, il capannone ce l'ha aperto, e praticamente ce n'è buona parte ce l'ha aperto. E l'altra parte della strada però, tutte quelle altre villette, come se niente fosse, nulla, non ha niente rovesciato i vasetti. No, pazzesco. E dall'altra parte invece per circa un raggio di circa 100 metri ha distrutto i tetti a tutti. Porca la miseria, queste cose si stanno verificando una volta all'anno. E tutto dice che cambieranno e diventeranno una volta al mese, sempre più potenti. Se qua non si muovono a mettersi una mano sulla coscienza, veramente è un disastro. Io mi aspetto da un momento all'altro che arrivi anche qua, perché ieri mi ha svegliato, sembrava che stessero sparando sulla porta, sulle finestre, ho fatto questa grandinata che erano pallottole. Fortunatamente non credo che abbia fatto danno, i vetri della macchina sembrano intatti, poi bisogna vedere perché cos'è successo. Però di una violenza mai vista, una sparatoria di grandi. Va bene, io mi devo allontanare, riprendi Claudio. Per adesso buona serata a tutti, ci sentiamo eventualmente più tardi. Ciao Gianfra, dai, ci aggiorniamo più tardi, sì, anch'io fra un po' stacco. Porca miseria ladra, vabbè, e cosa vuoi fare? Purtroppo la trovaglia è così, cammina in quel perimetro nell'arco di 50 metri mentre lei va avanti a mulinello, porta via tutto quello che trova. L'altro fianco, se cammina sul marciapiede di destra, marciapiede di sinistra, non fa niente. È un casino, è una cosa indescrivibile la trombalaria. Pazzesco. Vabbè, dove sei Marco? Sto andando a scaricarmi la roba che ho portato via dal deposito, ovviamente, perché il deposito ormai ce l'ha aperto, perciò non si può lasciare più nulla. Capito? Aspetta che rispondi. Ehi, va bene. Perciò mi sto portando via quelle cose delle moto che avevo, sto portando al garage. Un caso. Vabbè, niente, adesso non ci sono più niente, non c'è manco un po', niente, nulla, raso al suolo. Ah, quindi ce l'ha sotto casa. Ciao, Anto, buonasera. Mi dispiace per padrino, però purtroppo la calamità naturale non si comanda. È un casino. Adesso vedrai cosa fare. Vabbè. Papà, che sto mangiando? Ciao Marco, buonasera. Qui Anto, ciao. Buona cena allora. Vabbè, tanto lì non ci stava abitando, ma c'era la 320 motorizzata, c'era la Mose dalla parte, la 67, cioè cavolo, c'erano belle cose, capito? È tutta adesso una montagna di ferraglia per terra, cioè la Mose devi vedere, ma poi la cosa allucinante è che l'alluminio, quando vai a piegarlo, generalmente quando vai a cercare di piegarlo si acciaccano, si schiaccia al buco. Beh, ha fatto i tubi a svirgolati a modi di serpente, cioè non ho mai visto cosa c'è. Non li ha piegati in maniera da incicciarlo, come succede quando si prendi quei tubi e cerchi di piegarlo, poi non flette un po' e poi si schiacciano nella parte. Invece no, è riuscito, se vedi i tubi della Mosley, a farli senza cicciarlo. Allucinante, bravo. Dai, comunque volevo aggiungere una cosa per il corso della pandemia: se avessero comprato il vaccino, avessero vaccinato a tutti, non ci sarebbero stati così tanti responsabili. Invece i tedeschi si erano comprati il vaccino, non fanno niente. Qua noi siamo una madre. Sì Marco, a prescindere, però cioè siamo una madre di asini. Non si può in una settimana avere 15 ricoveri nuovamente d'urgenza in terapia intensiva e salire e oltrepassare il limite di guardia. Non si può, qualcosa non sta funzionando allora, dai, cioè non si può fare una cosa del genere, perché va veramente, mi sto stufando. Ilaria ha ripreso a lavorare questa settimana, adesso di nuovo chiusa, altre 10 giorni, altre 15 giorni, non si può andare avanti così. Credimi che non si può andare avanti più. Eia, a dopo, ciao. Chi è che sta provando a uscire e non sta uscendo? Rumore di alternata e basta. Propagazione, sì. Rumore di alternata. Chi è? Chi c'è qua nel canale 10? Oh già, ma tu eri? Nulla, ti sono senza occhiali. Ah, sei uscito. Già va bene, già sei nel canale 10. No, adesso sono riuscito a metterlo, prima ero spostato. 5 già. Mi sto spostando adesso, vediamo un po'. Hola, sono arrivato. Allora, buonasera Gianni, dove sei diretto? Ah vero, ora mi vuoi incollare lo smitter. Già te l'incollo, scusami. K, e Andieghi si aggoggia. Mi sono portato. Kappa, forte e chiaro qua già. Vai, scalda che faccio fredda rimane. Vai, abbaccia Rubiuvaru. Carichi tu, abbaccia Rubiuvaru. Abbaccia Rubiuvaru. Satanino. Ciao, Antu. E lo do vero tanto, ciamba di lavanderia. Ciamba di rimutati, Antu. No, mettiamo in quinta, lo mettiamo, sennò è un casino in occhi. Lascialo in quinta, che se no in sesta ti porta via la radio. Cappa, mi va giù appena rifatti, va giù me. Antu, ma male sto uscendo di radio? La batteria scarica o? Oh. Sicuramente sì, Natali. Cappa, dopo ne busco qualcuna qua e gliela metto. Cappa, così... Viso di Marte, diviso! Già va bene, lascialo stare così, dai. 9:20 stai arrivando, Antu, già va bene. No, Natalino, Natalino, Natalino accanto a te. Cappa, Natalino, c'ha un problema la batteria sicuramente, Me lo rompo, fa già... Ah, no, vabbè, come segnale siete uguali con Natalino, vabbè. Però lui non sta pompando, lui sta usando poca potenza. Ascolta, tanto ho cambiato microfono, ho messo al Galaxy, al Saturn Echo, il Darme più 3, va bene, no? Già lo credo, via, chi se lo Darme più 3 famoso, Tranne più 3B quello nero, già lo conosci. Questo è bestia. Bene, siamo. Ma secondo me in passato quello lì era il tuo, non me lo ricordo adesso. No, era di un'altra persona. No, non era il mio. Quello tuo ce l'ha Massimiliano, giusto? No, era di un'altra persona, vieni avanti già. Dai, non lo so come sto andando, sto sprei barra mobile via le Sicilie. Fesci da anch'ivi! 9:20 già! Ti andavo 13 da mia parata perché non uscito dal garage, da scala da garage, va bene, lei da anch'ivi che si affondo scala in occhi! Cappa, ma devi venire fin qua, devi venire già! No, mi fermo prima! La mazza che ti ne varia! Andavi, dai, interessante che mi sentite con questo apparato. Cazzo, mi sono spaventato, anzi sono andato a accenderlo e la frequenza era diversa ed ero nei canali di sopra, perché stavo facendo BX con i canali di sopra, a usilo, e poi non l'ho girato. Papà, stai toccando il DB, stai toccando già. Cazzo, Lola, allora sono potente. Vabbè, sei vicino a casa, sì, Mille Sicilia, vado a piedi dai nocchi. Io già vado in macchina. Ah, ci vado a piedi perché sono vicino. E lì, sicuramente ti sono vinciuto di tutto in Chieve. Comunque, già dovrei arrivare bene anche a Claudio adesso da qua, perché vicino a casa c'ho tutti i palazzi attorno, quando stavo partendo c'erano tutti i palazzi, per quello che ci arrivavo noi. Già, senti, rubato. Adesso sei 9:10, 9:20, 9:10, già va bene. Guarda perché c'è passato Antonio. Vai, non si abbassi tu. Rubaccio, grazie. Vai, bucci grosso. No, già, non lo passi. Ma no, Antonio, attaccato. Te lo do quello, tanto, non si abbassi in occhi. Dai, già sono basso. Cavolo, io che mi sei toccando il DB di più 30, proprio c'è a fondo scala. E vabbè, siamo vicini, dai, non è che... Fate da bravi. Mi tuo vicino, mi. Mi si imbarra il suo maracchino, mi. Fate da bravi. Ma bravo tu, bravo. il triangolo di Bermuda, mi Natalino, Gianni il profeta, Antonio Bombo. Cacci di figli di Rosmit. No, il mio c'è già delle buone sospensioni, Anto, tranquillo. Ma mamma te di lo chiama che si incioca e si aggoggia a me. Io sono leggero, dai, a parte che non faccio altro, quindi fa benissimo così. Io faccio un bit 300 attaccato, no. Cazzo, il triangolo delle Bermude, crocro. Avanti qua. Lubrofè. Ciao Natalino, buonasera, ben sentito. Guarda, ho abbassato il microfono, meglio va la radio, guarda se va bene. Sì, ti ascolto bene, forse o c'è il televisore troppo alto o c'è qualcuno vicino, insomma, sento altre voci, dai, comunque ti sento bene. E il televisore? Ho abbassato Natalino! Passato a due questo microfono, per vedere come sta uscendo. Va bene Natali, qua c'è quella pilandra di Antonio che sta facendo il ragazzo Monello, ogni tanto si sovrappone. Anto, mi sei sceso a Santiago Nove, mi. Che campo del cazzo, mi. Gioca. No, e vinti sei sceso a Santiago Nove. Ok, lassù, Fanto. Chissà, disoguri, bottenti. Chi fa famiglia, tra noi bastano 4 watt come li sto usando io. Perché se aumento io, Antonio, la passo. No, già c'hai lo stesso segnale. Oh. Non è che devi fare molta strada, Oh, bucci grosso, cosa mi baci tu? Mi chiamo, farà bravo. Già lo sai che ti faccio abbassare la polvere. Anto, tu sei attaccato, c'è lo stesso segnale suo e lui c'ha 4 watt. Prova a staccare a vedere, parlate assieme. Ora, aperto Natalino. Il microfono lo puoi abbassare, adesso lo passo solo di radio, se lo lo passo solo di radio, perché abbiamo lo stesso segnale, figurati se... No, non capisco niente, lo stesso segnale, capito? Avete lo stesso segnale, tu attaccato e lui staccato, se tu stacchi Natalino ti passa. Ah, vero, sì. Ogni tanto mi dà un problema. Cosa cazzo succede? Aspetta un attimino. C'è qualche problema tu, però non ce n'è problema, perché tu liscio sei 9.10 e Natalino 9.20 liscio però. No, non ci sono molti discorsi da fare, tu arrivi a 9.20 e si attacchi, quindi i discorsi sono belli che chiari. Avanti lo profe. Oioia. Monello. Monello, bombolino. E io quando arrivo qua, più o meno sono 9.20 con Natalino, giusto? Tu sei 9.22, qualcosa in più. Tu sei leggermente più alto. Stiamo rompendo un coglione, papà. Parla bene, Antonio. Fai da bravo. Cosa sta succedendo? Non lo so, controlla cosa sta succedendo, ma non dire parolacce. Ora! Stai uscendo Santiago Nove, mi stai arrivando, sei tutto strappato, controlla, vittima che già vuol dire fa boom, e vai doppio, dove sei? Fermo, sono fermo a Sassa di Vecchio, come sto arrivando? Sassa di Vecchio sei 9.10 quasi, segnale di bombolo. A Gianni, buonasera. Ciao Gianni, come va? Tutto ok, ti stai chiamando lo Smith? No, già c'è buon ammortizzatore il mio Smith, dai, comunque sei a fondo scala, evidentemente sei molto vicino, dai. Sì, io sono vicino a te, dai. Ma poi domani lo porto da Gizzo. Avanti Natalino. E dai, io vado in ascolto, dai, che non posso parlare. Si becchiane tirato, si becchiane. Ma cosa c'ha fatto? Ora! Sto un attimo. Prova ad attaccarlo senza lineare, è il tuo, a vedere se va bene. Tu è spento, è spento. È da ieri che mi sta rompendo le scatole, sta capo la parecchia. E riscendi vecchio. Antonio, vai, la radio è completamente satura. E il segnale si è abbassato. Qualcosa, magari degli spezzoni deve guardare. Magari qualche spezzone fatto male, qualche saldatura, qualche cazzata, ti fa perdere la testa. Anche a me l'altro giorno sto prendendo la testa da uno spezzone. Gianni, io lo splitter te lo faccio muovere. E si incolla. Bene, meda, bene, meda. Avanti Claudio, se ci sei. Già, eccomi con l'altro apparecchio. È da ieri che mi sta rompendo, già da qualche settimana che mi sta facendo quel difetto lì. Voglio capire che cosa è, domani lo riporto da chi me l'ha dato. Anto, quella radio c'ha qualche problemino, consulta chi te l'ha dato, perché c'ha qualche problemino, l'ha già fatto altre volte, è rimediato, adesso però è calato il segnale, da 9.20 si va a 2.9, tutto strappato, tutto incasinato. Va bene, io ne approfitto del Mike, ciao Gianni Doppio Rum, ciao Gianni Lo Profeta, Antonio Bombolo, Natalino e chiunque sia sul 10. Mi allontano un quarto d'ora, 20 minuti per portare il cane e poi sono nuovamente qua. All'arrembaggio, avanti Doppio. Ehi, ciao Claudio, buona passeggiata, dai, ci sentiamo. Se domani fa bella giornata me ne esco in macchina, attacco se c'è gente. Mandami, fammi uno squillo, non c'è problema, ok? A dopo, se coincide, dai, un quarto d'ora, 20 minuti, e io sono qua nuovamente nel canale 10. Ciao a tutti, vai Robrafè. Ehi, ehi, ok, qua, anche io mi sa che mi assento un attimino. Magari ci si aggiorna dopo. Quindi saluto, vabbè. Ritenetevi salutati tutti e ci aggiorniamo a più tardi, ok? Va. Vabbè, solo rimango adesso, va. Oggi sono io già. Ah, tu. Ci sei tu. Andare, dai. Magari dipende dall'apparecchio che c'ha qualche componente in perdita, tu. Sicuramente sì, però io l'apparecchio lo volevo buono, non così. Cioè, è logico che poi mi incazzo come una bestia, cioè perché cioè, è dall'altro giorno che mi sta facendo questa cosa qua. Dall'altro giorno che me ne sono accorto mi sta facendo questa cosa qua. Io l'apparecchio lo voglio buono, lo voglio, non così. Cioè, io ho comprato base in mono, cioè non ho base in maro, e non andava così. Vabbè, se l'hai pagata i soldi dei dati buoni, no? Capa, non so gumacco, non mi puoi dire che faccio stazionario né niente, non me li puoi dire che ci cazzate a me. Ci perdo poco tempo mi, con queste cavolate. C'è qualcosa che non va, c'è qualche componente in perdita in quell'apparecchio lì. Sicuramente è una cazzata, non è niente di che, però vuole controllarlo. Capa, sicuramente un apparecchio in passato mi ha fatto così. E ne ha cavato bene, sono una bassona, ne ha cavato bene. Non vorrei che ci abbia lo stesso problema con l'apparecchio lì. Quello che apparecchio è? 87. L'87? Un break, avanti. Capa, mi arrivi un po' basso col contatto, Vediamo se ascolta me, anzi. C'è Gianni, vediamo se l'ascolti. Sono vicino alla stazione, dai. Ma sono in basso, magari non mi ascolti, c'è tutti i palazzi davanti. Allora va bene, questo cicafuso, va bene. Sto parlando già. KK, io già ti sento già. Già ti sento. Però un po' basso ti sento, però già va bene. Lui già è vicino a me in macchina, è cambiato che la modulazione è molto più forte. Io già ti ascolto, ma ti ascolto basso di radio, che ho da rugginito. Ti ascolto, KK, basso ma ti ascolto. Io quando ti sto arrivando a Muros, ciao, chi si... guarda che si è ripreso già, com'è? Adesso va bene. Capa, chissà che mala sorte c'ha. Ora, fattura, va bene. No, è come scalda, tu secondo me, come scalda il componente va in perdita. Antu! Ehi, dimmi! Ma adesso che radio stai usando? 87 sto usando. E quella che fa il difetto qual è? Questa qua. Quindi senza lineare Antu non lo fa però, eh? No, adesso è attaccato già. Attaccato? E adesso non lo sta facendo però? No, no, non lo sta facendo, aspettate un po' che non lo sta facendo, c'è qualcosa che non va. Antu, ma non lo forzare, cambia radio, dammi retta, non lo forzare, cambia radio e metti in un altro. Bene, però la modulazione è molto scarsa, qua, ti devo dire la verità, era meglio l'altra. No, ha peggiorato. Campa, pure voglio tenerlo un pochettino in prova qua, per vedere se lo fa. Perché adesso ho cambiato situazione, ho messo 747, ho messo. Allora Antu, col 747 non lo fa, e ti dico un'altra cosa, che il segnale è molto molto più forte, sei quasi 9 più 25, capito? Con l'altro invece sia 9 e 20 e ti crea problemi. Il perché non lo so, però c'è qualcosa che non va. Il 747 tu sei sempre andato bene, la modulazione è chiara, perfetta, non te la satura e il segnale è ancora più alto. Ma uso questo, uso perché è migliore. Adesso lo tengo un pochettino in prova, vediamo un po'. Ai ai ai. Vediamo un po' se mi dà problemi. E adesso una cannonata, amica. Oh, ok. Cioè mi piace molto il 747, perché c'ha il sistema dell'RM Italy. Sì, Antu, vai tranquillo, non sei io male, non te ne dico. Allora, col 747 sei a posto, ok? A posto, non c'è saturazione, la radio 5 è perfetta. Il segnale è più alto di 9,20 e sei perfetto. Mentre quando attacchi quell'altro hai mille casini. Gappa, Gianni, ti arrivo bene lì. Gappa, sei bello liscio di radio e tutto. È più bella anche la radio con 747, è inutile. 747 ho un signor lineare. C'è un grido già, ma la scheda dell'RM Italy. E il 757 che ora non fanno più, era ancora meglio, ci aveva 300 watt mi pare, o 150, adesso non mi ricordo. No, 300, 300 watt, e ci va bene lo stesso, con i finali a MOSFET. Già, non te lo ricordi qual era il 757? È quello che ci avevo io in macchina nella Battimobile, in quella blu, della Guardia di Finanza. Quello lì era me, 757, bravo, 300 watt. A me con l'Aran 48 modificato me ne dava modulati 250 piedi. Vai tu. No, te la metti che facevamo, vi chiamavo dal rettilineo di Chiaramonti, arrivavo a Sassari. Sì, io me ne ricordo, come se fosse oggi. Beh, allora il 757, che poi ho dato a Walter, io l'ho messo in un furgone, capito, che era grigio. Quello lì, una cannonata, lascia questo Antu. Ricordati una cosa, te lo dico per esperienza vissuta. Non lasciare indietro la strada vecchia per la nuova. Se quel lineare va bene, è abbinato bene a quella radio, lascia lì. Io non noto nessuna differenza di watt, Antu, nessuna. Anzi, ti dirò, radio più bella come ti ha detto Gianni, e il segnale è ancora più alto, sei oltre il 9,20. Cappa, no, sta andando bene, no, quello lì, cosa posso fare qua? O me lo vendo, o che cosa posso fare, dimmelo, o da qualcuno, non so. Tu, le cose si danno se funzionano, se lì c'è un problema prima lo devi far vedere e poi te lo puoi vendere, ma ti ripeto, lasciati stare il 747 che va benissimo, non bene, no, benissimo. E se te lo dico io, te l'ha detto Gianni, te lo dicono tutti, l'altro ti mangia la radio, se tutto ogni andato si abbaccia a Rosignari e rientri di RF è un casino, ma gatti lo va, ti va, sei più alto con questo, non so. Cappa, quasi, guarda, ma altri controllo l'altra volta Luca, con questo qua, oltre 9,50 mi arriva la traduce, non è buccia di gioca a me. Lascia perdere la traduce, Antu, che sei attaccato, e tu i controlli devi chiedere a me, a Roberto, che siamo in alto, capito? E ti posso posso dire che io ho commutato adesso al 140, anziché 9,20, sì, quasi 9 più 25, mentre con l'altro, sì, 9,20 fermo, e boh, non ti muovi dai chivi, quinta, sesta, settima marcia, chi sul lineare mi pare che cammina più in folle che in sesta, così è già. E forse già ne fa vedendo. Oh, adesso voglio chiedere a Muros, che la ruggeretta come arrivo in quella zona? Capo, volevo sapere quanto arriva lì a Muros. Allora chissà cosa, no, ne ho ovunque e basta, finito il discorso. Anto, tu lo sai che io ti ho sempre detto le cose come stanno, per me va molto meglio quello lì, lineare, dell'arco che hai comprato, capito? Perché la radio è bella chiara, bella forte, il segnale addirittura è ancora più alto, quindi qualcosa c'è che non sta andando lì, perché quello è un 747, è uno finale, è ottimo, i suoi 80-100 watt te li tira fuori, a questo punto, cioè quello là manco 100 watt te tira fuori, non lo so. Beh, sicuramente è così, fidati, c'è qualcosa che non faccia. No, Anto, ma la matematica è quella, se io guardo il segnale, commuto con una radio professionale e vedo che stai arrivando ancora più forte, con un lineare inferiore di watt, qualcosa c'è che non convince, no, Anto? E poi la radio è molto bella, perché lo sai, io te lo dico, quando sei saturo te lo dico, questa è bella chiara, forte, cioè qualcosa c'è che non va, no? Quindi fai 1 più 1. Ma tengo te due, ne ho due di quelli lì, di quei 747. E B150 che fine ha fatto? È qua. E allora hai 3, quindi anche il B150 funziona bene, però il 747 prevale perché è un linearetto semplice, però fa il suo lavoro, capito? Poi quello c'ha la scheda RM Italy, c'ha i finali buoni, funziona bene. Io non l'ho mai dato, ne avevo due, uno purtroppo l'ho dato ad un amico perché le serviva per lavoro, e l'altro ce l'ho, io c'ho il 747, c'ho il B300P che funziona bene, no, come issue, capito? Funziona molto molto bene, nuovo, e poi c'ho quello grosso allo stato solido, il Winner, l'LA1000, capito? Sempre della RM Italy. Papa, non sembra neanche che sia attaccato, vero? Si conferma, è quello il bello. Cioè, è inutile che vogliamo aumentare il segnale e ci facciamo portare via la radio. È preferibile un bel abbinamento e qualche watt in più ci sta. Ma che quando io ti sento saturo, a me non mi piace ascoltarti così, ma non solo a te, a tutti, capito? La radio deve essere bella, limpida, bella. Quando uno attacca, la radio deve rimanere quella, l'abbinamento deve essere quello. Questo lineamento fa il suo lavoro, mentre l'altro no, tanto ti crea problemi. Avanti Claudio, che mi sto vestendo per portare il cane, dai, che era troppo presto. Claudio! Lì sei, mi Anto. Claudio, mi ascolti? Eia! Sai che c'è Claudio? No, sto rientrando adesso verso l'altra parte. Oh, chi è che voleva entrare? Cosa è? Gianni, eh! È Gianni, però magari non lo sentiva Claudio da muro, c'è capito? Ehi, va bene. Ma ce n'era anche un altro, chi è? Vabbè, tu sei. Oh, ho sentito un po' di persone. Va bene, no, comunque questa non mi piace la modulazione, lo so che a te ti piace modulare quel valvolare, ma questa non mi piace la modulazione. Era bella quella che stavo usando poco fa, andava molto bene, capito Cla? Cla, ti volevo dire una cosa, ma che lo posso dare questa affare? A farlo controllare? Cappa, te lo chiedo a Carlo Sbarbiero che lo posso dare a perderlo un po' cosa è successo. Claudio! Ehi raga, dai che sto mettendo il coso al cane e lo scendo un attimino giù e poi già sono qua, non c'è problema. Riprendete voi, dai. Gianni, 9.10, 9.15 arrivi, non c'è problema. Arrivate tutti benissimo, dai. Andate, dai. Ora c'è ancora la stazione già. Cosa Anto? Ho detto, ancora la stazione sì. No, sono in movimento Anto. Cappa, poco fa sopra modulava tutti. Toccava il DB, toccava proprio. Hai proprio vicino a casa tua, per forza. E la già va bene questo apparecchio, non mi dà problemi, parlo con tutti, con Alghero, con Porto Torres, con tutti i cani. La matta che te ne pare a cra. Oh già, sei su DBD più 30 qua, ma dove sei? Sono andato a Sedolci. Tu sei a fondo scala, sì. Lo so. Pure io sono un bel forte. Sì, io ti ascolto bene, anche tu. Cazzo, non ti ho perso un attimo. Sì, che mi devi dire, cazzo, questo è il piatto come si deve. No, dico, non ti sei calato un attimo dal 9.30. Ciao, brava. Ciao, spinge con l'antenna, è buona. Avanti, caro della Muros. Ehi, ti ascolto, ma ti ascolto molto basso con quel cos'è un Cossat. Ok. Sei un po' così, sì. Non è che ti copi bene come l'altro, no? Come l'altro che c'hai. KK, dai. Gianni, dove sei arrivato? Gianni, ci sei ancora? Già ci sono. Dove sei arrivato? Sono sulla Budi Budi. Budi Budi! A Platanova sta scendendo. Sì, Budi mi ha bisogno. Cazzo già, non ho uscito più questa radio, me l'ho portato dentro, sembra gibbe, l'ho messo vicino al termosifone e ancora metti il dito della appiccicoso. Ui ui ui, boh. Minchia, ma avevo anche delle uova asciutte a cavernicci. Ma che te l'ha fatta, tu l'hai fatta? No, ho fatto con un amico. È perché è ferro, capito? Vernice di ferro. E quindi un bel ci vuole asciugare, porca paletta, vabbè. Quella fatta diluente, capito? Non è all'acqua, quindi asciuga. Avevo una ghetta asciutata al radio, la volevo usare stasera, invece ancora non si può toccare. L'ho portata dentro, adesso l'ho messa vicino al termosifone. Cappa, ti vorrei domandare una cosa. Claudio, via, vabbè. Claudio Amuro, ci sei? Cappa. Quell'altro che c'è, quello là già è buono già, l'apparecchio, come chi si chiama? Cappa. E me già dove sei arrivato? Già, sei arrivato a casa? Aspetta qua che do un messaggio. Fai. Ah, ehi. Ma chi sei? Sono qua, sto aspettando la mia figlia. Cappa. Ma chi lo posso dare quello lì per dare una controllata? Non lo so. Ho portato un pugno a vedere cosa dice. Portaglielo. Vediamo un po'. Signore, c'è uno scaldabagno. No, già, diamolo a controllare lui, glielo dico. Dai, faccio un attimino di bianco, ce la risentiamo dopo. E gli dai che devo fare un paio di cose, ce devo fare. Dai che ci sentiamo più tardi, ok? Ehi, dai, ci sentiamo più tardi che anch'io sono impegnato. Un attimino mi devo organizzare per portare il cane. Sto aspettando mia figlia. Ci si muove, dai, a dopo, più tardi, ciao, passo e chiudo. Ehi, ciao. Attenzione 10, c'è qualcuno? Se c'è qualcuno, buonanotte a tutti, dai. Ci sentiamo domani che sono un bel stanco. Buonanotte a tutti.